Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io sono particolarmente affezionato alla puntata di oggi, 3 luglio 2013, una puntata che, come stiamo facendo in tutto il mese di luglio, mette insieme due pezzi di questa stagione, li mette insieme in teoria con una logica. Ad esempio, se è stato piuttosto facile per la puntata di ieri, ad esempio, in cui si parlava di bed and breakfast, di agriturismo e di sogni da frequentare, è un po' più complicato oggi, o meglio non è complicato. Quando abbiamo immaginato questa versione estiva di voi di cui abbiamo pensato, vogliamo raccontare queste due storie assolutamente perché sono magnifiche, ci teniamo, eccetera eccetera, ma intorno a cosa le facciamo girare? Io credo che queste due storie girino intorno al tema dell'unicità, al fatto di essere talmente particolari da diventare unici di fatto. La cosa che è particolarmente interessante di queste due storie è che una ha chiamato l'altra. Cioè, la prima storia che sto per raccontarvi parla di un ragazzo che, dopo un passato difficile, una gioventù difficile, ancora giovane, c'ha 30 anni, però dopo degli anni complicati legati anche a una tossicodipendenza, si tira fuori, diventa un fotografo e un giorno in montagna, in Valle d'Aosta, scopre questo essere straordinario che è uno stambecco bianco, uno stambecco albino di fatto. Ne esistono, sono rarissimi, mi pare che in Italia sia stato avvistato forse come unico esemplare, non so da quanti anni. Si chiama Fiocco di Neve, potete vederlo se avete il weekend libero, andate in Valle d'Aosta, cioè vederlo, insomma, potete andare a cercarlo, poi vederlo non lo so. Alvise, che è l'autore di questa storia, è andato a cercarlo, l'ha trovato e ha scattato delle foto magnifiche. Se avete voglia di vederle, andate sul suo sito, che è alvisecrovato.it. La seconda storia è arrivata di conseguenza questa. È arrivata pochi giorni dopo, e l'ha scritta una ragazza che si chiama Agnese, che in realtà mi ha mandato una mail che era una sorta di ringraziamento. Io le ho detto: no Agnese, tu non mi devi mica ringraziare, mi devi mandare una storia. E allora facciamo così: prima ascoltatevi la storia di Alvise, che parla di come è salito su una montagna con un'attrezzatura fotografica, ha scattato una foto a un animale rarissimo, direi unico, e in qualche modo questo animale gli ha cambiato la vita. E poi più tardi, dopo la borsa, ascoltatevi l'altra storia, che è una storia di vita, che è una storia di vita diversa, ma che Agnese racconta benissimo. A ben guardarla, la mia storia ha lo sviluppo classico delle storie che si raccontano: climax, anticlimax, lieto fine. Parte da un'infanzia pressoché felice in un paradiso terrestre come il Parco del Gran Paradiso, a Cogne. Da Milano si saliva tutti i weekend, tutte le vacanze in quella frazione, soprattutto e soprattutto. E io ero un piccolo montanaro che osservava il mondo, correva, camminava, sciava e faceva nascere i vitellini. Chiamare Eden il Gran Paradiso è giusto, e non solo per il nome che porta. Ricordo come ora le volte in cui ho per la prima volta consapevolmente annusato gli odori delle erbe delle praterie a 2500 metri, ascoltato i fischi delle marmotte, avvistato l'aquila, bevuto il latte caldo e visto i veri regnanti di quelle montagne, gli stambecchi. L'adolescenza ha poi percorso lo stesso cammino: ho scalato le montagne e diventato volontario a tempo pieno della LIPU. Ho imparato a conoscere i boschi e tutti gli ambienti con rinnovata consapevolezza. Nel frattempo al liceo conseguivo splendidi risultati, appassionandomi alla letteratura e alla filosofia, abbandonando in seguito pian piano la natura per il meraviglioso mondo delle idee. Quando ero bambino ero felice e, devo dire, molto spensierato, soprattutto quando ero in montagna. E poi, finito il liceo, il patatrac. L'hashish, la cocaina, l'oppio e poi l'LSD. Non mi interessa descrivere qui ciò che ho fatto in quei tempi, non è per questo che ho scritto. Voglio solo che sia chiaro che dal paradiso io sono caduto all'inferno diritto diritto e ci sono rimasto per un bel po' di tempo. Data via la casa a Cogne, di cui avevo per certi versi stuprato l'essenza in quel periodo, mi sono trasferito in Toscana. Sarò sempre grato ad alcune persone in quel di Val d'Orcia che mi hanno aiutato nel recupero. Sono tornato a Milano, mi sono iscritto all'università e ora sto scrivendo la tesi. Nel frattempo sono diventato fotografo. Sarò un geofotografo a tutti gli effetti. Ma nel frattempo cos'è successo? Nel frattempo è nato lui. È nato Fiocco di Neve. Uno stambecco bianco. Per l'esattezza, l'unico stambecco bianco alpino che esista. Giuro che se non me l'avessero detto dei grandi amici non ci avrei creduto. Ho scoperto poi che è nato nelle montagne tra Aosta e Cogne, ma che vive stabilmente sopra il mio paesino, là dove avevo conosciuto le stelle alpine da piccolo. Un giorno Marco, grande amico di ogni esperienza, mi guarda e mi dice: dobbiamo andare a cercarlo. Cercare un animale in tutte quelle enormi montagne, trovarne il branco, seguirlo e sperare di vedere proprio lui, un totem, un animale che ha veramente del mitologico, mi emozionava infinitamente. Ma non era semplice organizzare il tutto. Avremmo dovuto allenarci, visto che saremmo dovuti stare in quota per qualche giorno. Non ci sono rifugi lì, neanche bivacchi. Bisogna portare la tenda e le provviste. Arriviamo in paese e chiediamo un po' di informazioni. I vecchi cacciatori ci dicono che bazzica il monte Grauson, che dobbiamo fare il primo campo base lì, in fondo alla valle, per controllare in quale parte del monte stanno gli stambecchi. Partiamo, la salita è dura, gli zaini sono molto pesanti. Io ho 5 kg solo di attrezzatura fotografica e non sono adeguatamente allenato. Salendo soffio tantissimo. Quando arriviamo al posto dove mettere la tenda, dopo una breve salita sono stanco morto. Stiamo 2 giorni lì e la sera, coi binocoli, vediamo i vecchi maschi uscire dalle rocce lassù e scendere nei prati a pascolare. E fiocco di neve? Non sappiamo se sta già con loro, con i maschi, a 6 anni, forse è ancora con le femmine. Rifacciamo gli zaini e stavolta sarà una lunga salita. Arriviamo distrutti a 2500 metri. Piantiamo la tenda nell'unico posto un poco vicino all'acqua, c'è la nascita di un torrentello a 15 minuti di cammino. La sera li vediamo uscire, le corna immense, i movimenti calmi e sicuri, ma lui non c'è. Cominciamo a pensare che non lo vedremo mai. Di notte la luna piena ci permette di non accendere neanche una piccola torcia. Lo stammecco bianco è unico. Lo stammecco bianco ha l'aura mitica degli esseri speciali. Lo stammecco bianco è un totem. Il giorno dopo ci svegliamo, riniziamo a salire attraversando prati brulicanti di stelle alpine. Risaliamo il versante fino ai 3000 metri e avvistiamo il branco, sparso per le rocce, a prender l'ombra. Ci appostiamo e li aspettiamo, ma siamo sotto vento e quando è ora continuano a stare sulle rocce, lontani, e soprattutto manca lui. Inizio a perdere le speranze, mi metto a fotografare i fiori e poi, a un certo punto, Marco urla: eccolo! Alzo gli occhi, prendo il binocolo e lo vedo. È bianco, luminoso, è splendido. Gli corriamo incontro il più possibile, faccio le foto e inizio a guardarlo. È meraviglioso, si muove tranquillo mentre gli altri vecchi maschi controllano i nostri movimenti, sembrano proteggerlo. Lui guarda verso il sole, sembra parlargli. Ha un'aura incredibile, quella degli esseri speciali, straordinari. Io e Marco stiamo un'oretta lì con lui fino al tramonto. Ripartiamo poi perché dobbiamo tornare giù alla tenda in fretta per prendere l'acqua e per cucinare. Durante la strada ci rendiamo conto che questo incontro ci ha cambiato. Non saremo mai più gli stessi. L'abbiamo cercato, l'abbiamo visto e l'abbiamo fotografato. Quella foto è stata pubblicata e io sto facendo la tesi su quelle montagne, perché da quel giorno mi sono un po' riavvicinato al paradiso. Sono vicino, adesso. Sono tornato. Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I already fucked it up this time. Prima di leggere la storia di Alvise, io non sapevo nemmeno che esistesse uno stambecco bianco. Anzi, non me lo domandavo nemmeno. Cioè, se qualcuno mi avesse detto che aveva visto uno stambecco bianco, avrei immaginato che gli stambecchi fossero, che ne so, di diversi colori e quindi potessero essercene di neri, di bianchi, di marroni, di maculati. Però il modo in cui Alvise lo descrive e soprattutto quello che provano lui e il suo amico Marco dopo averlo visto rende tutto inequivocabile. Lo stambecco bianco è una rarità talmente rara da cambiare un po' la vita di chi lo vede. O almeno così descrive la cosa Alvise. Ho fatto delle ricerche e ho trovato un sacco di notizie su Fiocco di Neve. Ho scoperto che è una sorta di star degli animali, di cui moltissimi parlano, che in molti cercano. È il 25 giugno del 2007 quando una notizia rimbalza fra le agenzie di stampa: stambecco bianco avvistato in Valle d'Aosta. In realtà la presenza di uno stambecco albino, cioè di colore bianco, era già stata segnalata nell'estate prima, nel 2006, quando alcuni cacciatori asserivano di aver visto nel vallone de l'Eloré, ai piedi della parete est del Monte Emilius, uno stambecco femmina con un cucciolo di colore bianco. Tuttavia la notizia rimase circoscritta e non vi furono accertamenti. I racconti furono presi in scarsa considerazione anche perché l'albinismo fra gli stambecchi è un fenomeno estremamente raro. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso viveva, pare, negli anni 90, una femmina albina di camoscio. L'animale era stato fotografato a più riprese in Val Savaranche. Si sa che sono esistite delle marmotte albine, ma stambecchi bianchi non se n'erano mai visti, né in Valle d'Aosta né altrove. Dunque, tecnicamente l'albinismo è un disturbo congenito ereditario che si manifesta con l'assenza o la riduzione della melanina nella pelle, nei capelli, nei peli e negli occhi. Insomma, per farla breve, se parli con un medico, lui, come sempre, ti parlerà di questo fenomeno come di una patologia. Eppure, vedere un animale bianco in mezzo ad animali scuri della stessa razza cambia un po' la nostra percezione delle cose. Non so come e perché lo fa, ma se già la diversità in senso assoluto è spesso molto difficile da comprendere, da accettare, e qualunque tipo di diversità intendo, lo è ancora di più avere a che fare con qualcosa che è l'apoteosi della diversità. Qualcosa che è talmente diverso da essere praticamente unico. Non lo so, forse perché rende visibile e palpabile quello che gli insegnanti, gli educatori o i genitori illuminati ci ripetono da sempre, e cioè che ognuno di noi è uguale agli altri, ma che è unico, forse è quella cosa lì. Per cui ognuno di noi ha dei bisogni, dei desideri, ha delle paure che sono simili a quelle di tutti, cioè deve mangiare quando ha fame, dormire quando ha sonno, piangere quando è triste e ridere quando si diverte. E vale così per tutti, in qualunque angolo del mondo, in qualunque epoca. Eppure ognuno di noi ha una sua unicità che lo porta a volere una cosa invece di un'altra, a preferire il gelato al cioccolato a quello alla fragola, ad amare una donna al posto di un uomo e viceversa. Ecco, insegnare questo concetto ad una persona, dicono, è una delle basi dell'umanesimo, e chi riesce a farlo compie davvero un atto di miglioramento di questa società. E Fiocco di Neve forse è così ammagliante perché, senza bisogno di parole o di esempi, spiega tutto quello che ho appena detto, semplicemente rimanendo immobile su una roccia d'alta montagna, guardando il sole. Quel piccolo stambecco bianco racconta che è diverso dagli altri, è diversissimo dagli altri, ma forse lui nemmeno lo sa, e questo lo rende identico a tutti i maschi che gli stanno intorno, semplicemente perché, esistendo, uno stambecco bianco arricchisce la nostra vita e la vita di chi lo vede, perché gli dice: guardami, sono qui anch'io, e nonostante sembri così diverso, in realtà tutto è uguale. Da Milano mi scrive: ho visto un passero albino molto raro sul balcone di casa mia a Milano. Guarda Diego, non so se i passeri bianchi sono così rari, però la prendo per buona. La cosa però che fa specie di questa storia, di questo racconto, oltre alla straordinarietà di quell'animale lì, è l'effetto, è la scia che lascia sulla persona che l'ha vista. E quindi, visto che ce l'abbiamo al telefono, parliamo direttamente. Pronto Alvise? Pronto. Ciao, come stai? Bene, grazie, bene, bene. Dove sei, okay. Alvise, in questo momento? Sono a casa a Milano. E stai? Sono a casa. Ti disturbiamo facendo cosa? Stavo sistemando delle fotografie che ho fatto stamattina sul Ticino. Che cosa hai fotografato sul Ticino? Muschi. Beh, che è indubbiamente interessantissimo. Quanti muschi ci sono sul Ticino in aprile? Adesso c'è tantissimo, c'è ancora. Non c'è praticamente verde sopra. Sugli alberi, e il verde è tutto sotto, sopra c'è nebbia e possono venire fuori delle cose carine. Venite a Roma che c'è il sole. Scusami, invece poi andiamo a lui, andiamo a Fiocco di Neve. Ma sì. A cosa porta un uomo nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, quale tu mi sembri, a fotografare del muschio nella Valle del Ticino? Il suo professore di fotografia di paesaggio. Ok, quindi è colpa di qualcuno. Lo prende e lo porta con 5 gradi A fotografare i muschi. A fotografare i muschi. Perché Alvise, raccontiamo due cose di te. Tu dici diventerò un geofotografo. Che cos'è esattamente un geofotografo? È uno che racconta la geografia. Racconta come il mondo viene vissuto e viene vissuto, sì, attraverso le fotografie. Perché tu hai questa particolarità, correggimi se sbaglio, sarebbe difficile perché me l'hai detto 20 minuti fa fuori onda, però tu sei fotografo, e questo lo abbiamo capito, però ti stai laureando in geografia, a breve tra l'altro, sì, giusto? Sì, il 17 aprile, sì. Cioè settimana prossima praticamente, cioè 10 giorni. Mercoledì prossimo. E la tesi è su? La tesi è sul rapporto tra la popolazione e il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Valle di Cogne. Ho fatto delle interviste, ho fatto un questionario, insomma, ho studiato un perché po'. Perché i parchi sono sempre vissuti un po' maluccio da quelli che ci abitano? Diciamo in passato sì, ultimamente no. È una cosa molto importante questa, perché poi c'è stata una legge del 91 che ha cambiato un po' le cose e diciamo che ora i parchi sono motore di sviluppo più che altro. Okay, non vado avanti, altrimenti mi discuti tutta la tesi in diretta. Io invece, Alvise, vorrei andare a questo stambecco bianco. Allora, di fatto, parlami come se fossi un imbecille di 6 anni, cioè un bambino imbecille di 6 anni. Allora, gli stambecchi sono marroni, giusto? Castani, come si dice? Gli stambecchi sono marroni. Sì. Marroni, ok. Sì. Poi succede una volta. Come il colore dell'erba di montagna di aprile. C'è della poesia in questa frase, marroni. Sono marroni, diciamo, in sostanza. Sì, sì, sì. Finché non nasce, e perché è una questione genetica, giusto, come direbbe un veterinario o uno scienziato, è quasi una patologia, perché l'albinismo è una disfunzione della melanina. Dico cose che ho letto su Wikipedia, perdonami, quindi le dico malissimo. E capita di avere l'opportunità di vederli, questi animali. Che cosa? Perché dici che in qualche modo ti ha cambiato vedere questo stambecchino? Stambecchino, ma prima tu hai parlato benissimo del ti fatto che lui non si rende conto, lui ha un atteggiamento straordinario, ma veramente guardava il sole, guarda, è stata una cosa veramente emozionante vederlo, ma trasuda innocenza. Trasuda il fatto che comunque non se ne rende conto, ma invece se ne rende conto, come potrebbe essere Maradona da bambino. No? Mi dici al pallone che sì, mi piace questo paragone. Che no? E invece per lui è la cosa più naturale della terra, esatto, palleggiare con le arance. Mi dici però se riesci, so che non è così facile, però in che cosa sei un po' diverso dopo che hai visto uno stambecco albino? È un discorso lungo, ma diciamo e abbiamo che... tipo 30 secondi purtroppo. Ok, no, è stato mettere la corona a un sogno, è stato capire che si può essere grandi pur essendo molto piccoli, e arrivarci. Quanto arco di vita hanno gli stambecchi? Quanto durano? Gli stambecchi possono superare i 20 anni, però circa. Quindi, insomma, c'è possibilità di vederlo. Ma organizza. Io ho visto che c'è un sito dedicato a lui addirittura. Ma qual è la possibilità? Organizzano delle gite? Immagino di no. Ragazzi, di qua per lo stambecco bianco. Ma allora, sai, c'è un atteggiamento un po' altalenante, nel senso che si tende a non pubblicizzarlo troppo, perché comunque è benissimo. Quindi questa puntata ha rovinato totalmente l'ecosistema della Val d'Aosta e di Cogne. No, però invece c'è chi pensa che sia comunque, come è, una cosa straordinaria e che si debba sapere, insomma, che comunque ci sia, per cui è giusto saperlo. Guarda, io ti dirò, Alvise, non l'ho ancora visto, ma già solo sapendo che c'è, un po' mi sento una persona un po' diversa. Guarda, lui è lì sopra, lui e gli altri sono lì sopra tutti, di tutti che controllano il mondo dall'alto. Alvise, ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata. In bocca al lupo per la tesi di settimana prossima. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Between the words that I don't say, beneath your sacred nights and days, through the gales of life and laughter, when you can't see what you're after, The evenings and the afternoons are measured out in coffee spoons between the sunshine and the rain. I thought I'd something more to say. It's a new life for the neighbors, hit the name in all the papers. Don't you know? Don't you know? Voi siete qui. Voi siete qui, Radio 24. Torniamo a parlare di unicità, torniamo a parlare di storie, in realtà, che è quello che facciamo tutto l'anno, da settembre a giugno e a luglio con queste puntate speciali. Questa seconda parte della puntata è dedicata sempre a una storia di unicità, che però non ha a che fare con uno stambecco bianco, che per quanto è un essere meraviglioso, è un animale, insomma, non è un essere umano. La storia che invece sto per raccontarvi è la storia di Agnese, che ha sentito la prima puntata, la prima storia, perdonatemi, quella dello stambecco, e ha deciso di scrivermi la sua. Agnese è affetta da albinismo, che è una disfunzione della pelle, poi lei ci racconterà meglio di cosa si tratta. Agnese vive una vita particolare, perché avere la pelle completamente bianca crea dei problemi non solo alla pelle ma anche alla vista, eccetera eccetera. Quindi Agnese ci racconta in questa storia come è passata da uno stato in cui accusava questo suo essere unica a uno stato in cui ha cominciato a considerarlo quasi una particolarità eccezionale. Mi chiamo Agnese, ho 15 anni, scrivo da Verona e sono una ragazza affetta da albinismo. L'albinismo è una malattia rara, genetica, ereditaria. Infatti, quando sono nata io, i miei genitori sono rimasti molto sorpresi. Non si aspettavano che nascesse qualcosa di così bianco e puro. Come di conseguenza il significato del mio nome, Agnese, cioè pura. Sono nata, per fortuna, in mezzo a delle sorelle che mi rendono sempre più forte ogni giorno che passa. Sono la terza di quattro donne. Le mie due sorelle più grandi ormai stanno per lasciare la famiglia, mentre quella più piccola sta iniziando a capire che cos'è l'albinismo e a chiedermi come e che cosa vedo. Infatti noi albini abbiamo una visione molto ridotta, cioè vedo circa due decimi, anche se vengono peggiorati da molteplici fattori, tra i quali il nistagmo, che è un movimento involontario dell'occhio, e a volte dalla fotofobia, cioè la percezione doppia della luce. Questo però non mi fa abbattere, anzi mi rende più forte, perché con il tempo ho sviluppato molto di più altri sensi come l'udito o il tatto. Ho avuto un periodo della mia vita in cui mi sono particolarmente chiusa in me stessa. Non mi piacevo e pensavo di non piacere agli altri. Non trovavo nulla di particolarmente entusiasmante in me stessa che mi facesse dire: che bella persona che sei, Agnese. Poi, nell'autunno della terza media, mia mamma mi accenna di un progetto di una fotografa e di un calendario. Così inizio a pensare che forse avrei dovuto aderire e provare a farmi fare qualche scatto, anche solo per svago, visto che adoro la fotografia. E accetto. Si trattava di un progetto fotografico per raccogliere dei soldi per poi mandare la fotografa, perché aveva questa intenzione di andare in Africa e fare le foto ai bambini africani albini. In poche settimane mi ritrovo a casa di Silvia, la fotografa di cui mi aveva tanto parlato mia mamma. La sua casa è molto accogliente e dopo aver preso un tè e mangiato qualcosa, tra una chiacchiera e l'altra, mi sistema i capelli legandoli all'indietro. Comincia a fare qualche scatto, io lo lascio fare, dopotutto non so come comportarmi, quindi seguo le sue istruzioni. Quando a un certo punto mi dà in braccio il suo gatto, inizialmente rimango un po' perplessa, poi però mi giro verso l'obiettivo e Silvia scatta la meravigliosa foto che finirà sul calendario. Questo è stato uno dei momenti che hanno caratterizzato di più il mio modo di essere, quindi mi ha aiutata ad aprirmi e a dire che forse qualcosa di bello in Agnese c'è. Molti hanno definito splendida quella foto, altri l'hanno paragonata a una di quelle donne ottocentesche. Io ci noto una certa somiglianza, anche se ancora adesso non riesco a dire che sono davvero io in quella foto. Questa foto è stata fatta vedere a molte persone, ancora prima di farla pubblicare sul calendario. La mia autostima è aumentata ogni giorno, e così sono arrivata fino all'inizio della seconda superiore, nel 2012, anno in cui facciamo pubblicare finalmente il magnifico calendario con la mia foto e quella di altri bambini. Silent from a night so cold. Non ho mai smesso di fare sport o comunque di comportarmi come gli altri. I miei genitori non mi hanno mai creato alcuna campana di vetro, mi hanno sempre lasciata molto libera. Fino a quando, nella mia piscina, alcuni esperti incontrano il mio talento di nuotatrice. Mi chiedono di entrare a far parte di una squadra di disabili, sia ipovedenti come me, sia disabili dal punto di vista psicologico e negli arti. Io accetto con entusiasmo. E mi dicono con altrettanto entusiasmo che saranno organizzate delle gare per ipovedenti e disabili. All'inizio la mia idea era che fossero semplici gare, che probabilmente non sarei mai arrivata prima, avendo appunto poca autostima di me. Ma la situazione si ribalta quando, alla mia prima gara, uscita dalla piscina, il mio allenatore quasi freddamente mi comunica che avevo realizzato i tempi per partecipare ai campionati italiani paraolimpici di nuoto. Scoppio in una risata in cui non riesco a capire ancora adesso se si trattava di gioia o di stupore, probabilmente un mix di tutte e due. E finalmente arriva il giorno di questi campionati italiani paraolimpici di nuoto. Mi trovo praticamente faccia a faccia con campioni italiani e olimpici come Cecilia Camellini, ad esempio. Incomincio a chiedermi come ci sono arrivata, lì, in così poco tempo. Fino a quando, in poche ore, mi ritrovo sul blocco di partenza dei 100 metri stile libero. Quando sei lì sopra, non hai alcun pensiero. Hai la mente completamente vuota. Aspetti solo quel grido. A posto! Il tuo cuore magari batte all'impazzata, ma il tuo corpo non se ne cura e rimane concentrato su quei due segnali in particolare. E quindi, ecco, sono in acqua. Sto percorrendo i miei 100 metri come se fosse l'ultima cosa che potrei fare prima di lasciare tutto e andarmene. Arrivo in fondo ai primi 25 metri ed è già tempo di fare la virata. La mia poca vista mi assicura che se vedo il segno blu per terra, sott'acqua, è segno che un abbracciato o due e la virata è praticamente già completata. Succede così ovviamente anche per gli altri 25 metri e 50 a seguire. Gli ultimi metri li faccio come se fossi stata una di quelle eroine, dotate di qualche superpotere speciale, e arrivo finalmente a toccare con tutte e due le mani il bordo della piscina. Ho il fiatone. L'unica cosa che riesco a fare è alzare lo sguardo verso il mio allenatore, che sembra sprizzare felicità da tutti i pori. Nel frattempo non avevo capito se ero arrivata prima o ultima, anche se il mio timore era quello appunto di non avere dato il massimo. Nella mia stessa batteria c'era un altro ragazzo che ha perso l'uso delle gambe per via di un incidente qualche anno fa. Abbiamo sempre relazionato poco perché tutti e due molto timidi, ma credo che in quel momento avessimo creato una specie di legame col pensiero. E infatti riuscivo a capire cosa stava provando lui e lui riusciva a capire cosa stessi provando io. È sembrato strano anche a me, ma questo è il nostro modo di capirci, avendo comunque tutte e due una disabilità che è superabile. Lui mi fa i complimenti e scorgo un vero sorriso sul suo viso, come se fosse stato orgoglioso di me. Trovo che il nuoto sia un ottimo metodo di sfogo anche per lo stress, per la scuola, per tutte le pressioni che ci sono fuori. E mi aiuta un sacco a rilassarmi anche tutti i muscoli, pur facendo fatica, perché comunque gli allenamenti sono abbastanza duri. Arrivano le premiazioni. Chiamano la famosa batteria dei 100 metri stile libero classe S13, ossia gli ipovedenti, come me, la classe più alta di disabilità. Essendo per me un mondo nuovo, vedere tutti quei disabili è stato davvero un impatto molto forte. Le altre ragazze della mia batteria si avvicinano con me al podio. Partono dal terzo posto e io tiro un sospiro di sollievo perché non sono io a essere arrivata terza. E a quanto pare nemmeno seconda. Ho paura di essere arrivata quarta, quando una voce squillante annuncia che io, Agnese, ero la nuova campionessa italiana paraolimpica di nuoto e che di conseguenza il mio tempo era stato registrato come nuovo record italiano. Primo posto e primo oro alla mia prima gara nazionale. Ho imparato ad accettare ogni obiettivo più arduo con determinazione e con l'aspirazione sempre di riuscirci e di arrivare prima, ovviamente. La mia autostima è sicuramente aumentata, come sono aumentate e migliorate le relazioni con gli altri miei coetanei. Non è stato l'unico oro. Il giorno dopo sono riuscito a conquistarne un altro nei 50 metri stile libero, quasi per un pelo, esattamente un secondo di differenza dall'altra ragazza che nuotava con me nella mia batteria. Non smetto mai di dirmi «ce la posso fare», davanti ad ogni ostacolo. Sto cambiando e sto crescendo, ma non smetterò mai di amare quel bellissimo mondo che mi è stato fatto vedere in quelle gare e che continuerò a vedere nelle prossime. Sono una persona generalmente timida e riservata, anche se il progetto, che spero venga reso visibile a più persone, mi sta aprendo sia psicologicamente che in senso astratto molte strade di vita e di relazione con gli altri. È da lì che ora sono diventata così forte e determinata anche nel nuoto. Questa è la mia storia e io sono qui. Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente. E giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare.